ne famo noi dentro. Ah, vabbè. Poi ci spruzzo quando vedi. Ah, ok. Intra. Vai. Fai pure a parlare di qualche stronzata? Forse.